3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Incredulo. Dalla vostra ormai streghetta Elisa Pasquini, che come ogni settimana cerca di convincere Giorgio l'Incredulo e tutti voi, ascoltatori di Radio Big World, che il mondo non è fatto solo di scienza, ma anche di qualcosa di un po' magico. Buongiorno Giorgio, come stai? Grazie Elisa, grazie di avermi dato la parola perché qui qualcosa io ce l'ho da dire, ma insomma, ma basta, hanno invaso YouTube con tutte queste storie degli angeli, dei nani, delle ballerine, demoni, streghe, gli illuminati, eppure quelli a cui gli hanno tagliato la luce, insomma, non ci si fa più con tutte queste storie bizzarre, l'energia e la vibrazione e tutto e niente. Tutto è vuoto, ma se è tutto come fa a essere vuoto? Insomma, per forza siamo increduli. D'altra parte, però, non ci dimentichiamo che negli ultimi 2 decenni, quantomeno, ha spopolato in America e riempiva palazzetti interi un medico, in primis un medico che aveva studiato, che ha studiato nelle più prestigiose università americane, quindi scientificissimo, ma che dall'altra parte era un indiano e era anche medico ayurvedico, Deepak Chopra. Si racconta che nelle sue cliniche, per esempio quella in Inghilterra, si riuscisse a guarire da malattie anche gravissime nel giro di pochi giorni. Ora, naturalmente servivano 2 condizioni: uno, i quattrini, perché d'altra parte noi altri sa da morire, e ancora torna il fatto, anche in Deepak Chopra, che certe cure funzionano se si sa perché funzionano. Allora, tanto vale informarsi di più e informarsi grazie a qualcuno che ne sa, e gli amici di Radio Big World sanno che chi di questo argomento è esperta non sono io, che sono incredulo, ma è naturalmente Elisa. E Elisa oggi ci parlerà di una cosa finalmente scientifica, finalmente accademica. Si parla di una tesi, quindi ci sarà una bella università con tutti questi professori con la parrucca che a un certo punto danno il sigillo dello Stato su un pezzo di carta. Bene, Elisa, finalmente un po' di scienza, di quella con la S maiuscola. La tua tesi è su la correlazione tra le emozioni umane e quelle canine. Ma figurati. Ma andiamo, Elisa, ma che ti metti a studiare? Ma lo sanno tutti che gli uomini sono una cosa e gli animali sono un'altra. Ci sono tanti studi scientifici, quindi oggi sarai felice di sapere che c'è qualcuno col camice bianco e queste cose le ha studiate. Quindi oggi non è solo magia, ma c'è tanta tanta scienza. Finalmente. Allora, partiamo dal presupposto di dare una definizione di emozioni. Le emozioni sono uno stato della mente e del corpo che mediano il contesto ambientale e quello dei nostri pensieri e colorano e influenzano le nostre reazioni e relazioni. Le emozioni, questo. Queste sono le emozioni. Ma queste emozioni sono emozioni umane, queste che hai descritto sono quelle di leopardi, sempre caro, mi furbo. Ma gli animali? Pensa, primo a delineare una netta differenza fra gli uomini e gli animali fu Cartesio, Pensate. che nel 1600 disse che noi umani provavamo emozioni, mentre gli animali reagivano solo a eventi interni o esterni in modo del tutto meccanico. D'accordo, e Manzoni, no, nel mezzo vile meccanico intendeva questo, cioè ti fai guidare come un burattino dall'istinto senza controllare le emozioni. E gli animali? Poi arrivò Darwin, che come sai è uno scienziato che ha studiato tantissimo gli animali, le piante e gli esseri umani, e fu il primo ad individuare che gli animali provavano 6 emozioni fondamentali: la Ma dai. rabbia, la felicità, la tristezza, il disgusto, la paura e la sorpresa. dai! Quindi queste sono emozioni che regolarmente un animale, per esempio il tuo cane, la tua canina, prova e al di là di ogni ragionevole dubbio. Sì, ma di più, perché poi dopo Darwin ci fu Stuart Walton e anche Antonio Damasio che affermarono che c'erano altre emozioni, quali la gelosia, il disprezzo, la vergogna e l'imbarazzo, ma anche l'empatia, il senso di colpa, l'invidia, l'orgoglio, l'ammirazione e l'indignazione. Quindi tutte emozioni uguali alle nostre. Qui di che animali si sta trattando? Tipo, stai parlando di mammiferi o per esempio anche il coccodrillo? Tutti gli animali provano queste emozioni, chi più chi meno, nel senso ci sono animali più sviluppati, animali meno sviluppati, però in piccola dose tutti gli animali che hanno un cervello e senziente provano questo tipo di emozioni. E come sono correlate queste emozioni, cioè quelle degli umani e quelle degli animali? Noi proviamo delle emozioni per delle ragioni, o perlomeno così ci illudiamo, quindi ci arrabbiamo per una determinata cosa, ci indigniamo per un'altra, ci disgustiamo per un'altra ancora e cerchiamo di avere un pensiero cosciente. E l'animale com'è che prova queste emozioni? Prima di tutto dobbiamo dividerle in due categorie. Le primarie, che sono quelle che aveva individuate Darwin, quelle risiedono in una porzione del sistema limbico, che è l'amigdala, e quelle sono quelle che ti fanno fuggire davanti a un pericolo. Quindi sono quelle che ti fanno decidere cosa fare, quelle che noi non governiamo consciamente. Anche noi ce le portiamo dietro da un retaggio abbastanza primitivo. Le secondarie invece potrebbero anche essere, diciamo, partire da un'emozione primaria, ma richiedono che il cervello ragioni, quindi che decida in quel momento come agire, perché sono un pochino più complesse rispetto alla semplice reazione scappo o attacco. Come nascono e come si sviluppano? Ci fu il primo grande etologo, che è Conrad Lorenz, che lui, durante l'osservazione degli animali, capì attraverso comportamenti, quindi postura, come muovevano la coda, come muovevano le orecchie, cosa stava esprimendo un cane. Loro naturalmente non ti dicono sono arrabbiato, abbaiano contro oppure ti mordono, oppure non ti dicono sono triste, magari abbassano la coda e tirano indietro le orecchie. Loro piano piano hanno imparato a sviluppare sempre di più emozioni che appartengono più al nostro modo di essere, perché sono animali empatici. Figurati. Quindi quando si dice che cane e padrone si assomigliano, al di là della battuta, c'è in effetti uno scambio, per esempio, tra un cane e la sua famiglia o le persone che lo accudiscono, uno scambio emozionale. Esatto, è proprio di questo che io parlo nella mia tesi, cioè quello che noi proviamo viene spesso riflettuto e amplificato nel cane che vive con noi, nel senso che se io sono triste, il cane all'inizio cercherà un pochino, no, di dire oh giochiamo, così ti rallegri un po'. Se questa tristezza noi non la trasformiamo in felicità, piano piano anche il cane si riattristerà e si adeguerà all'emozione che noi proviamo. Stessa cosa però riguarda noi, nel senso che se un nostro cane ha paura, ce la trasmette, noi magari quando lo portiamo fuori staremo un pochino più sul chi va là, perché sentiamo forte le emozioni di spavento del cane e quindi siamo più guardinghi anche noi. Il cane però tradizionalmente è un animale molto empatico, perlomeno con gli esseri umani, il miglior amico dell'uomo, bla bla bla, ma per esempio la stessa cosa funzionerebbe sul gatto? I gatti, diciamo che sono abbastanza influenzati dalle nostre emozioni, però pur essendo domestici o comunque aver subito un periodo da addomesticamento, loro vivono molto di più in autonomia. È più facile che un gatto provi più empatia, non lo so, verso l'altro gatto di famiglia piuttosto che verso di noi. Però anche loro, nel momento in cui noi siamo, non lo so, malati, un po' tristi, è facile vedere che il gatto si acciambella vicino a noi, sì, o che sì, va sì, a toccare il punto in cui noi sentiamo male. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. È vero. Incredibile, è vero. Quindi, cane e gatto, ora prendiamo questi due animali, ora il leone o il bove, insomma, sono abbastanza lontani da noi. Questi due animali effettivamente partecipano alle emozioni generali. E già che abbiamo parlato più volte del fatto che l'aspetto emozionale poi si manifesta nel fisico, all'aspetto fisico, e pertanto a volte genera malattie, la stessa cosa farebbe negli animali? Esatto, c'è stato appunto uno studio abbastanza recente dell'Università di Vienna che ha analizzato i livelli di cortisolo, quindi che è quello l'ormone dello stress, nel cane e nel proprietario, e hanno visto che più i proprietari erano stressati, più alto era il livello di cortisolo nel cane. Quindi loro assorbono tanto nelle nostre situazioni stressanti, e quindi bisognerebbe cercare noi per prima di abbassare il nostro livello di stress, perché se diventa stress cronico è un casino, perché poi non esci più, perché altrimenti questo stress si ribalta direttamente sul fisico dei nostri animali. Quindi gli animali si ammalano e si portano dal veterinario, tra l'altro pagando un sacco di soldi, si ammalano, sì, va bene, per ragioni più propriamente canine o gattine o coccodrilline, però anche in particolare per quelli che sono gli animali domestici, soffrono e si ammalano anche per colpa dei loro padroni, loro conflitti non risolti che in qualche modo si manifestano a livello emozionale, si trasmettono agli animali e gli animali si ammalano. Esatto, ma io ti posso portare n.000 esempi, cioè tipo la mia canina sì, è ammalata di uno stesso parassita che c'avevo io e non è trasmissibile fisicamente. Mm-hmm. Ecco, lei l'ha avuto nell'orecchio, io l'ho avuto nell'intestino, ma derivavano dalla stessa, dallo stesso tipo di, era comunque un parassita che viene alimentato dallo stress. Yeah. Quindi lei l'ha preso dall'orecchio, io l'ho preso nell'intestino, però tutte e due abbiamo avuto una reazione forte a degli eventi stressogeni. Quindi con gli animali non è solo una questione di viverci insieme, mangiare insieme, andare fuori insieme di notte alle 3 di notte a fare la cacca un freddo d'inverno, ma è anche proprio, si comparte la vita emozionale, tanto che certe emozioni che gli uomini provano si trasmettono agli animali, e se queste emozioni sono foriere, per esempio, di una infezione, è probabile che l'infezione la prenda anche l'animale. Questa, esatto, cosa è anche al rovescio, cioè dall'animale passa all'uomo? Assolutamente sì, nel senso che noi siamo correlati di tantissime cose, quindi è probabile che se il cane soffre di una malattia psicosomatica e sta a stretto contatto con noi, e noi siamo molto molto empatici, e ci si possa trasmettere anche a noi. Ora, gli americani saranno buffi, fanno ridere un pochino, ma non sono strulli, anzi i migliori cervelli alla fine, quantomeno dell'Occidente, lavorano lì, ma non solo loro, e gli americani sono stati tra i primissimi ad accogliere le teorie all'epoca, quantomeno di Freud, tanto che poi le hanno sviluppate, Anna Freud, la propaganda, tutto il sistema televisivo e pubblicitario americano è stato creato dalla famiglia Freud. E Freud, nelle sue teorie che piacevano tanto agli americani, che piacciono tanto agli americani, ma anche a me onestamente, parlava di dell'ess, del superio, dell'ego, di qui e di là, mi piacciono ma sono ignorante. Tanto che in America, ecco perché gli americani sono nate cliniche freudiane per gli animali. E uno pensa, ma questi sciroccati, guarda te, per i quattrini, per i dollari, quelli fanno le cose più incredibili, tipo Elvis che sposa in una baracca a Las Vegas. Ma stando a quello che dici, ha un senso, per esempio, parlare di ego negli animali, parlare freudianamente o junghianamente degli animali? Allora, io credo che loro siano ben capaci di, ora tranne rari casi in cui veramente c'è bisogno di un veterinario comportamentalista, di autoregolarsi, cioè quello che spesso viene escluso da queste cliniche o anche da chi si rivolge a un vero educatore cinofilo è l'importanza che ha il proprietario nella relazione. Perché fin tanto si lavora solo sul cane, su quello che fa il cane, se è aggressivo, se non lo so, abbaia, se tira il guinzaglio, e si lavora solo su quello, si esclude la parte principale che è causa spesso di conflitti, che è la relazione con noi. Ben vengano le cliniche per aiutare gli animali, però è come si direbbe una terapia di coppia, nel senso che bisognerebbe cambiare noi per far cambiare loro. Chiaro. Perché se noi continuiamo a tornare a casa la sera stressati, stanchi, morti, e oh che palle, devo portare fuori il cane, e questo tirerà per forza il guinzaglio perché c'è dall'altra parte uno che è incavolato come una iena, e figurati se ci vuole stare vicino e magari abbaia a ogni foglia che si muove. Se uno torna a casa e nonostante una giornata stressante si rilassa un attimo, spenge il cervello e va a portare fuori il cane magari si godrà di più e sarà più tranquillo in passeggiata. È una banalità questa, però fa la sua differenza. Elisa, la tua tesi e quindi il trattare dell'emotività negli uomini e negli animali e come si correlano tra di loro ha a che fare anche con i fiori. E ora, molti professori universitari di oggi sono stati ragazzi nel 68, quindi qualche cannone se lo facevano e se lo faranno anche ora, insomma, magari ora fanno i parrucconi, ma sotto c'hanno i rasta. Ho un amico tabaccaio che mi dice spesso: te non ti immagini nemmeno chi compra le cartine lunghe. Pertanto, che senso ha la tua tesi in relazione con i fiori? Perché dopo la festa di laurea vi andate a sbombare di quella cosa che a Firenze coltivano solo i militari, almeno ufficialmente? La relazione è che nell'ambito floriterapico, quando una persona porta il suo cane, se uno osserva molto molto attentamente la personalità del cane, la personalità della persona, ci sono delle relazioni anche nei fiori che devono prendere entrambi. Quindi io nella mia tesi appunto ho portato due casi di due persone che sono venute da me per il cane e hanno, diciamo, avuto dei fiori molto molto simili. Quindi c'era una persona molto timida con un cane molto timido. D'accordo. Una persona molto ansiosa con un cane molto ansioso. Per cui diciamo che per migliorare entrambi non solo bisogna modificare il proprio comportamento, ma se i fiori li prendono entrambi è più facile che più velocemente una situazione si modifichi. Infatti queste persone hanno avuto un cambiamento veramente veloce, il cane soprattutto, perché il cane non ha filtri, quindi non sa nemmeno cosa sta prendendo, per cui si vede molto molto più velocemente un cambiamento. E se questo cambiamento è, diciamo, aiutato dal fiore anche nel proprietario, si vede proprio come si amplifica a livello energetico questo lavoro. Detta così è incredibile, ma probabilmente è meno bizzarra di quel che suona, anche perché se si vedono e si osservano uomini e animali, in particolare quelli che vivono insieme, beh, sono moltissime le domande che vengono. E una di queste domande che ti faccio, Elisa, è: osservando gli animali di una persona con un occhio allenato, si è in grado di capire anche la persona umana che gli fa da padrone? Sì, assolutamente sì. Si capisce tanto, tanto di quello che magari lui proietta sul cane. Quindi lui si racconta cose del cane che magari non accetta e che riguardano magari una sua insicurezza profonda. Quindi è bellissimo vivere con un cane, e io ne ho due, quindi, però spesso noi proiettiamo su di loro cose che noi vorremmo, aspettative che noi facciamo. Quindi lavorando su questa cosa è molto facile vedere tanti aspetti della persona. Una ultimissima domanda, Elisa, poi ti lasciamo alla tua tesi, perché ancora molto probabilmente c'è da lavorare, perché le tesi alla fine non finiscono mai e non sono il punto di arrivo di un cammino, ma spesso sono il punto di inizio. Tu tratti in maniera più diretta i cani o animali un po' più domestici, ne hai in casa due di cani, ma a me piacciono gli animali più di grossa taglia e in particolare i miei preferiti sono i bovini. Mi dispiace tantissimo mangiarli, non sono ancora riuscito a diventare vegano, però mi dispiace tantissimo sapere che li uccidono. Si racconta che in questi macelli moderni, dove uccidere questi animali è una catena di montaggio per trasformarli poi in prodotti da commerciare, spesso di qualità discutibile, fatto sta, si dice che questi bovini soffrano molto e che trasmettano la loro sofferenza alla loro carne. Che cosa ne pensi? È credibile questo fatto, cioè che l'emozione negativa della mucca o del toro in qualche modo si ripercuote poi sulla sua carne e noi la mangiamo? È una cosa abbastanza atroce, nel senso di come vengano gestiti i macelli, soprattutto quelli degli allevamenti intensivi. La sofferenza che provano queste bestie è forse qualcosa che noi moriremo molto prima di arrivare a essere, diciamo, macellati, a partire dal fatto di come alle mamme vengono tolti i cuccioli, a come questi cuccioli vengano praticamente ammazzati appena nati. Insomma, ci sono studi anche qui scientifici che provano che la carne che noi mangiamo è invasa da tutta la sofferenza che loro hanno passato. Quindi ti dico che sicuramente una mucca morta di vecchiaia e poi macellata avrà una carne diversa da una mucca o da un maiale che viene macellato in un allevamento intensivo. Con questa scena molto triste eppure molto reale, facciamo finta di non vedere, ma gli hamburger non crescono nei banconi del supermercato, pertanto invitiamo gli ascoltatori di Radio Big World a perlomeno riflettere su questo e in particolare a riflettere sul fatto che le nostre emozioni non solo influiscono sul nostro corpo, sulla nostra salute, non solo influiscono sui corpi e la salute di quelli che ci stanno intorno, altri esseri umani, ma anche e soprattutto degli animali. E siccome oggigiorno moltissimi hanno animali da compagnia, chiamiamoli così, in casa, beh, gran parte probabilmente delle loro sofferenze, frustrazioni o malattie è di origine umana. Elisa, grazie di aver condiviso i tuoi studi e la tua tesi, perché insomma alla fine è un qualcosa di importante a cui hai lavorato tantissimo e stai ancora lavorando tantissimo. Grazie. Grazie a te Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e spero di potervi poi raccontare come sarà andata la discussione, diciamo la fine e l'inizio di questo percorso. Olé!